Le avventure di Pinocchio di Carlo Collodi. Capitolo 26esimo. Pinocchio va coi suoi compagni di scuola in riva al mare per vedere il terribile pesce cane. Il giorno dopo Pinocchio andò alla scuola comunale. Figuratevi quelle birbe di ragazzi quando videro entrare nella loro scuola un burattino. Fu una risata che non finiva più. Chi gli faceva uno scherzo, chi un altro, chi gli levava il berretto di mano, chi gli tirava il giubbettino di dietro, chi si provava a fargli con l'inchiostro due grandi baffi sotto il naso e chi si attentava perfino a legargli dei fili ai piedi e alle mani per farlo ballare. Per un poco Pinocchio usò disinvoltura e tirò via. Ma finalmente, sentendosi scappar la pazienza, si rivolse a quelli che più lo tafanavano e si pigliavano gioco di lui e disse loro a muso duro: «Badate, ragazzi, io non sono venuto qui per essere il vostro buffone. Io rispetto gli altri e voglio essere rispettato. Bravo Berlicche, hai parlato come un libro stampato!» Urlarono quei monelli buttandosi via dalle matte risate, e uno di loro, più impertinente degli altri, allungò la mano con l'idea di prendere il burattino per la punta del naso, ma non fece a tempo perché Pinocchio stese la gamba sotto la tavola e gli consegnò una pedata negli stinchi. «Ai, ai, ai, ai, che piedi duri!» urlò il ragazzo stropicciandosi il livido che gli aveva fatto il burattino. «E che gomiti, anche più duri dei piedi!» disse un altro che per i suoi scherzi sguaiati si era beccato una gomitata nello stomaco. Fatto sta che dopo quel calcio e quella gomitata Pinocchio acquistò subito la stima e la simpatia di tutti i ragazzi di scuola e tutti gli facevano mille carezze e tutti gli volevano un ben dell'anima. E anche il maestro se ne lodava perché lo vedeva attento, studioso, intelligente, sempre il primo ad entrare nella scuola, sempre l'ultimo a rizzarsi in piedi a scuola finita. Il solo difetto che avesse era quello di bazzicare troppi compagni, e fra questi c'erano molti monelli conosciutissimi per la loro poca voglia di studiare e di farsi onore. Il maestro lo avvertiva tutti i giorni, ed anche la buona fata non mancava di dirgli e di ripetergli più volte: «Bada Pinocchio, quei tuoi compagnacci di scuola finiranno prima o poi col farti perdere l'amore allo studio e forse forse col tirarti addosso qualche grossa disgrazia». «Non c'è pericolo, no, non c'è nessun pericolo, caro», rispondeva il burattino facendo una spallucciata e toccandosi con l'indice in mezzo alla fronte come per dire: «C'è tanto giudizio qui dentro, ah sì». Ora avvenne che un bel giorno, mentre camminava verso la scuola, incontrò un branco dei soliti compagni che, andandogli incontro, gli dissero: «Sai la gran notizia?» «No. Qui nel mare vicino è arrivato un pesce cane grosso come una montagna». «Davvero? Che sia quel medesimo pesce cane di quando affogò il mio povero babbo. Noi andiamo alla spiaggia per vederlo. Vuoi venire anche tu?» «Ah, io no, no, no. Io voglio andare a scuola». «Ma che ti importa della scuola? Alla scuola ci andremo domani, con una lezione di più o con una di meno. Oh, si rimane sempre gli stessi somari. E il maestro che dirà?» «Il maestro si lascia dire, è pagato apposta per brontolare tutti i giorni». «E la mia mamma?» «Le mamme non sanno mai nulla», risposero quei malanni. «Sapete che cosa farò?» disse Pinocchio. «Il pesce cane voglio vederlo. Per certe mie ragioni, manderò a vederlo dopo la scuola». «Oh! Povero Giucco!» ribatté uno del branco. «Che credi, che un pesce cane di quella grossezza voglia star lì a fare il comodo tuo? Appena sei annoiato piglia il drizzone per un'altra parte e allora chi si è visto si è visto». «Quanto tempo ci vuole di qui alla spiaggia?» domandò il burattino. «Oh, fra un'ora siamo belle andati e tornati». «Dunque via, e chi più corre è più bravo», gridò Pinocchio. Dato così il segnale della partenza, quel branco di monelli, coi loro libri ed i loro quaderni sotto braccio, si messero a correre attraverso i campi, e Pinocchio era sempre avanti a tutti, pareva che avesse le ali ai piedi. Di tanto in tanto, voltandosi indietro, canzonava i suoi compagni rimasti a una bella distanza, e ne vederli ansanti, trafelati, polverosi e con tanto di lingua fuori, se la rideva proprio di cuore. Lo sciagurato in quel momento non sapeva a quali paure e a quali orribili disgrazie andava incontro. Le avventure di Pinocchio, di Carlo Collodi, editore Felice Paggi, Firenze, 1883. Pubblico dominio. Interpretazione e voce di Annibale, Covini, Gerolamo. Creative Commons 4.0 International. BYNC ND. Opera 6 aprile 2024.